Ad alta voce, Elia Shilton legge Fame di Knut Hamsun, traduzione di Ervinio Pocar. Era venuto l'inverno, un inverno inclemente e piovoso, quasi senza neve, un'eterna notte nebbiosa e tetra, senza una sola ventata fresca in tutta la lunga settimana. Nelle strade i fanali a gas ardevano quasi tutta la giornata e ciò nonostante la gente si scontrava nella nebbia. Ogni rumore, lo squillo delle campane delle chiese, i sonagli delle vetture, le voci degli uomini, lo scalpitio dei cavalli, tutto aveva un suono sordo e sepolto nell'aria spessa. Passavano le settimane e il tempo continuava sempre uguale. Io abitavo ancora nella solita locanda a Waterland. Ero sempre più legato a quel ristorante, a quell'alloggio per viaggiatori dove mi tenevano nonostante la mia miseria. Le mie risorse erano consumate da un pezzo e tuttavia entravo e uscivo quasi ne avessi il diritto, quasi fossi in casa mia. Finora la padrona non mi aveva fatto alcuna osservazione, eppure mi tormentava il pensiero di non poterla pagare. Così passarono 3 settimane. Già da qualche giorno avevo ripreso a scrivere, ma non riuscivo a mettere insieme nulla di soddisfacente. Non avevo più fortuna, per quanto lavorassi come uno schiavo da mattina a sera. Potevo tentare qualunque cosa, ma era inutile. La fortuna non veniva. Avevo una camera al secondo piano, la camera migliore tra quelle destinate ai forestieri. Là facevo i miei tentativi. Mi avevano lasciato indisturbato dopo quella prima sera in cui mi ero presentato col denaro e avevo potuto pagare il conto. In tutto quel tempo avevo sperato di portare a termine un articolo su questo o su quell'argomento per poter pagare la camera e altri debiti. Perciò lavoravo con tanto accanimento. Avevo incominciato un racconto d'appendice dal quale speravo molto, l'allegoria di un incendio in una libreria, un pensiero profondo che volevo elaborare con la massima diligenza per sdebitarmi col commendatore, il quale doveva accorgersi di avere a che fare con un vero ingegno. Non avevo il minimo dubbio che se ne sarebbe accorto. Si trattava solo di aspettare che mi venisse l'ispirazione. Perché non doveva venirmi l'ispirazione alla prima occasione? Ora stavo bene. La padrona mi dava ogni giorno un paio di panini col burro, la mattina e la sera. Il mio nervosismo era quasi scomparso. Quando scrivevo, non occorreva più che mi fasciassi le mani contro il freddo e dalle finestre del secondo piano potevo guardare nella strada senza che mi venisse il capogiro. La mia situazione era migliorata di molto in tutti i sensi. E mi stupivo addirittura di non essere stato ancora capace di portare a termine l'allegoria. Non capivo proprio da che cosa dipendesse. Un giorno, finalmente, dovetti accorgermi fino a qual punto fossi indebolito e come il cervello lavorasse pigramente e senza rendimento. La mia padrona era salita da me con un conto. Mi pregò di rifare le somme perché, diceva, in qualche punto ci doveva essere un errore. Le somme non concordavano con i suoi libri e lei non era riuscita a scoprire lo sbaglio. Sedetti e incominciai a sommare. La padrona era seduta di fronte a me e mi guardava. Sommai le 20 voci del conto prima dall'alto al basso e trovai che il totale era giusto, poi dal basso all'alto e arrivai al medesimo risultato. Guardai la donna davanti a me che aspettava il mio responso e in quella notai che era incinta. Questo particolare non mi sfuggì, eppure non l'avevo osservata attentamente. «La somma è giusta», dissi. No, fate il piacere di controllare numero per numero, rispose. Non può essere tanto, ne sono sicura. Mi misi dunque a rivedere voce per voce, 2 pani a 25 cada uno, un vetro da lampada 18, sapone 20, burro 32. Non ci voleva davvero una testa molto sveglia per ripassare quelle colonne di numeri, quel piccolo conto da bottegai tutt'altro che misterioso, e io tentai ostinatamente di scoprire l'errore, ma non lo trovai. Dopo essermi accapigliato qualche minuto coi numeri, mi accorsi purtroppo che tutto mi si confondeva nel cervello. Non sapevo più distinguere il dare dall'avere e rimescolavo ogni cosa, finché mi arenai del tutto e precisamente a questa voce: libre 3 e 5 sedicesimi di formaggio a 16. Il cervello mi si impuntò e io stetti a guardare stupidamente quel formaggio senza poter avanzare di un passo. Accidenti, come scritto male, esclamai disperato. Qui c'è scritto 5 sedicesimi di formaggio, proprio così, non si è mai visto, guardate anche voi. Vedo, rispose la padrona, così scrivono sempre i salumieri. È formaggio nostrano, va benissimo. 5 sedicesimi sono mezzo etto. Sì, sì, capisco, la interruppi. In realtà non ci capivo un H e mi provai di nuovo a risolvere il quesito. Qualche mese prima l'avrei risolto in un minuto. Tutto sudato, stavo studiando quelle cifre misteriose, stringevo le palpebre per concentrare il pensiero e far vedere che cercavo la soluzione di quel pasticcio, ma dovetti rinunciare. Quel mezzo etto di formaggio fu la mia rovina. Avevo la sensazione che nel cervello qualcosa mi si fosse spezzato, ma per dare l'impressione che stavo ancora calcolando, muovevo le labbra, pronunciavo ogni tanto un numero e tutto intontito facevo scorrere gli occhi sul conto come se mi stessi avvicinando al totale. La signora aspettava. Infine dissi: ecco, ho ripassato tutto ancora una volta da cima a fondo, ma lo sbaglio non lo trovo proprio. No, domandò la padrona, davvero? Ma capii che non mi credeva. E nel tono che assunse mi parve di sentire una sfumatura di disprezzo. In un tono così indifferente non mi aveva mai parlato. Osservò che probabilmente non avevo molta pratica di sedicesimi. Soggiunse che si sarebbe rivolta a qualcuno che se ne intendesse perché le controllasse il conto. E non lo disse in tono offensivo per ferirmi. No, era soltanto seria e pensierosa. E quando fu sulla soglia per uscire, disse ancora senza guardarmi: scusate se vi ho rubato un po' di tempo. E se ne andò. Poco dopo la porta si aprì e vidi rientrare la padrona. Poteva essere arrivata solo in fondo al corridoio. Già, quasi mi dimenticavo, disse. Non abbiatemene a male, ma ora mi pare di essere in credito. Non siete venuto esattamente 3 settimane fa? Credo che sia esatto. Sapete, non è facile sbarcare il lunario con una famiglia così numerosa. Purtroppo non posso tenere i clienti a credito, la interruppi. Ma voi sapete che sto scrivendo un articolo. Appena arrivo in fondo avrete quello che vi è dovuto, potete stare tranquilla. Già, ma in fondo a quell'articolo voi non arrivate mai. Credete? Può darsi che l'ispirazione mi venga già domani, forse magari questa notte. Non è affatto impossibile che mi venga durante questa notte, e allora l'articolo è finito in pochi minuti. Tenete presente che il mio lavoro non è un lavoro come gli altri. Io non posso mettermi a sedere e fornire ogni giorno una data quantità di lavoro. Devo aspettare il momento giusto, e nessuno al mondo può prevedere il momento in cui mi verrà l'ispirazione. Bisogna aspettarla. La padrona uscì, ma la sua fiducia in me era certamente alquanto scossa. Appena fui solo, mi cacciai le mani nei capelli. Non c'era più salvezza. Nessuna salvezza nonostante tutto. Il mio cervello era stato del tutto svalutato. Ma ero davvero un cretino se non ero capace di calcolare il valore di un pezzo di formaggio. E se mi ponevo domande simili, era possibile che avessi perduto il cervello. Oltre a ciò, mentre mi tormentavo con quel conto, Non avevo forse fatto chiaramente l'osservazione che la padrona era incinta? Come potevo saperlo? Nessuno me l'aveva detto né mi era venuto in mente per associazioni di idee, ma lo avevo capito immediatamente e per di più in un momento disperato mentre stavo calcolando i sedicesimi. Come spiegare tutto ciò? Mi affacciai alla finestra che dava sulla Vogtmansgate. Giù nella strada alcuni ragazzi, vestiti poveramente, giocavano tirandosi una bottiglia vuota e sollevando un putiferio di grida. Vicino a loro passò lentamente un carro di masserizie. Certamente era una famiglia sfrattata che doveva cambiare casa senza aspettare l'epoca dei traslochi, così pensai lì per lì. Sul carro c'erano mobili e pagliericci, lettiere e canterani tarlati, seggiole a tre gambe verniciate di rosso, ferraglie, stuoie e pentole di zinco. Una bimba con l'aria da monella, brutta e col naso rosso, era seduta in cima al carico e si teneva salda con le povere manine gelate per non cadere. Stava seduta su un mucchio di orribili materassini bagnati e guardava i ragazzi che giocavano con la bottiglia vuota. Vidi tutto ciò dalla finestra e non feci alcuna fatica a comprendere quel che succedeva. Mentre stavo osservando, udii anche la domestica della padrona che cantava nella cucina accanto alla mia camera. Conoscevo quella melodia e stetti attento per sentire se stonava. E fra me dicevo che un idiota non sarebbe stato capace di farlo. Grazie a Dio avevo dunque ancora il mio cervello come tutti gli altri. A un tratto vidi che due di quei ragazzi nella strada si mossero imprecando l'uno contro l'altro come due veri monelli. Ne conoscevo uno, era il figlio della padrona. Aprì la finestra per ascoltare meglio ed ecco formarsi proprio sotto la finestra un piccolo assembramento di bambini che guardavano in alto con curiosità. Che cosa si aspettavano? Che buttassi giù qualche cosa? Non so, fiori appassiti, ossi, mozziconi di sigaro, qualunque cosa con cui giocare. Mi guardavano col viso blu dal freddo e con certi occhioni grandi grandi. Intanto i due avversari continuavano a insultarsi. Parole grosse come mostri uscivano tonando da quelle bocche infantili, insulti da sgualdrine, bestemmie da marinai che avevano forse raccolto laggiù al porto. Entrambi erano troppo infervorati per accorgersi che la mia padrona arrivava di corsa e domandava che cosa stesse accadendo. «È stato lui!» dichiarò suo figlio, «a saltarmi alla gola, non potevo più respirare!» E volgendosi verso il piccolo delinquente che lo guardava con viso cattivo, si mise a gridare infuriato: «Va all'inferno dove è più fondo, carogna, fetente che non sei altro! Un assassino pidocchioso come te! Saltarmi alla gola! Ringrazia il cielo se non...» E la madre, quella donna incinta che con la sua mole dominava tutto il vicolo, afferrò il ragazzo per un braccio e fece per trascinarlo via, apostrofandolo, un ragazzino di 10 anni, in questo modo: «Tieni il becco chiuso, anche bestemmie, parli come se fossi stato allevato in un bordello, fila, a casa!» «No, non ci vengo!» «Come? Non vieni? No, non ci vengo!» Dalla finestra vedevo che la madre si agitava. Quella scena disgustosa mi fece perdere le staffe, non ne potevo più. Perciò gridai al ragazzino che salisse un momentino da me. Lo chiamai 2 volte, soltanto per separarli e metter fine a quella scenata. La seconda volta chiamai molto forte. La madre guardò su, sbalordita, ma si ricompose subito e, lanciandomi un'occhiata impudente, batté in ritirata non senza rimproverare suo figlio ad alta voce: «Dovresti vergognarti! Anche gli estranei vedono quanto sei cattivo!» Nulla mi sfuggì di quella scena, neanche il minimo particolare. La mia facoltà di osservazione era indebolita, forse, ma io respiravo, per così dire, ogni cosa, anche la più piccola, con la massima sensibilità. Su ogni frase della scena che si svolgeva laggiù facevo via via le mie riflessioni, dunque il mio cervello doveva essere a posto. Del resto, perché non avrebbe dovuto esserlo? Sta a vedere, dicevo tra me, ora ti sei occupato abbastanza della tua intelligenza e abbastanza sei stato in pensiero. È ora di finirla con le pazzie. È forse un indizio di cervello malato afferrare e afferrare esattamente tutte le cose come fai tu? Mi fai quasi ridere, credi a me. Vi è un certo umorismo in tutto ciò, almeno secondo me. Insomma, a chiunque può capitare di arenarsi e proprio nelle cose più semplici. Questo non vuol dire nulla, non è che un caso. Per poco, ripeto, non mi hai fatto ridere. E in quanto a quel conto di Salumiere, a quello sporco mezzo etto di formaggio da pezzenti... Si può ben chiamarlo così, un formaggio col pepe e i chiodi di garofano. Per quanto riguarda quel formaggio ridicolo, anche al migliore degli uomini sarebbe potuto capitare di fare la figura dell'imbecille. Basta il puzzo di quel formaggio per rivoltare lo stomaco. Così mi facevo beffe di tutto il formaggio nostrano del mondo. «Presentatemi una cosa mangiabile!» esclamai. «Presentatemi, se credete, 5/16 di ottimo burro da tavola! Sarebbe un'altra cosa!» E ridevo di un riso malato alle mie trovate spiritose che mi sembravano veramente divertenti. Ah, la mia mente era sana. Il buon umore andava aumentando. Camminavo su e giù per la stanza e parlavo a lungo tra me e me. Ridevo forte e mi sentivo immensamente bene. Pareva proprio che avessi bisogno soltanto di quei pochi secondi di allegria, di quei momenti di vera, luminosa e spensierata esaltazione per rimettere la testa in grado di lavorare. Sedetti e ripresi la mia allegoria. E tutto andava bene, come non era andato da molto tempo. Non rapidamente, ma a quanto mi pareva, quel poco che mettevo insieme era eccellente. Lavorai un'ora intera, senza provare alcuna stanchezza. Così arrivai a un punto molto importante dell'allegoria sull'incendio nella libreria. E mi parve così importante che rispetto a quella pagina tutto quanto avevo già scritto impallidiva. Stavo concretando il pensiero profondo che quelli che ardevano non erano libri, ma cervelli, cervelli umani, e di quei cervelli in fiamme volevo fare una vera notte di San Bartolomeo. Ma in quella la porta si spalancò e la padrona entrò come una furia. E venne proprio nel mezzo della camera, senza nemmeno fermarsi sulla soglia. Io mandai un grido rauco. Mi pareva quasi di aver ricevuto una botta. «Come dite?» fece lei. «Mi pareva che diceste qualcosa. È arrivato un viaggiatore, abbiamo bisogno di questa camera. Potete passare la notte giù da noi. Anche laggiù avrete il vostro letto». E prima di aspettare la risposta... si mise senz'altro a raccattare i miei manoscritti e ad ammucchiarli in disordine. Il mio umore sereno svanì di colpo e mi alzai disperato e furente. Lasciai che la padrona sgomberasse la camera e non dissi nemmeno una parola. Quella mi mise in mano tutti i fogli e a me non rimase che lasciare la camera. Anche quel momento prezioso mi veniva sciupato. Per le scale... incontrai il nuovo arrivato, un giovanotto con grandi ancore azzurre tatuate sulle mani. Lo seguiva un facchino che recava sulle spalle un baule da marinaio. Il forestiero era certamente un uomo di mare, dunque un cliente occasionale venuto a passare la notte, dunque non avrebbe occupato la stanza per molto tempo, forse già l'indomani, partito lui, potevo avere la fortuna di qualche momento buono. Mi bastava l'ispirazione di 5 minuti e avrei compiuto il mio lavoro sull'incendio nella libreria. Dunque, bisognava rassegnarsi alla sorte. Fino allora non ero mai entrato nell'appartamento della famiglia. Era un unico stanzone dove stavano tutti insieme giorno e notte, il marito, la moglie, il padre della moglie e 4 bambini. La domestica stava nella cucina dove passava anche la notte. Mi accostai alla porta con riluttanza e bussai. Nessuno rispose, ma sentivo che dentro stavano parlando. Quando entrai, il padrone non disse una parola, non rispose nemmeno al mio saluto. Mi guardò soltanto con indifferenza come fossi un'ombra. E poi stava giocando a carte con un tale che avevo già visto al porto, un facchino che aveva il nomignolo di Lastra. Un lattante stava nel letto e barbugliava tra sé, mentre il vecchio, il padre della padrona, era rannicchiato su una panca, la testa appoggiata alle mani, come se gli dolesse il petto o lo stomaco. Aveva i capelli quasi bianchi e in quella posizione raggomitolata sembrava una lucertola col capo sospeso, tesa all'ascolto. «Purtroppo devo chiedere ospitalità per questa notte», dissi al padrone. «Lo ha detto mia moglie?» domandò. «Sì, la mia camera è assegnata a un nuovo cliente». Quello non replicò e continuò a giocare. E se ne stava lì giorno dopo giorno e giocava con chiunque venisse. Giocava per niente, soltanto per ammazzare il tempo e avere qualche cosa da fare. Non faceva niente altro. Si muoveva quel tanto che gli consentiva la pigrizia, mentre sua moglie correva su e giù per le scale, sorvegliava dappertutto ed era sempre in faccende per attirare i clienti. Si era anche messa d'accordo con i facchini e portabagagli, ai quali dava la percentuale per ogni cliente che le portavano, e molte volte dava alloggio anche ai facchini stessi. Ora il nuovo ospite glielo aveva portato Lastra. Entrarono 2 ragazzine col viso da monelle, smunto e lentigginoso. Erano vestite molto miseramente. Poco dopo entrò la padrona. Le domandai dove mi avrebbe sistemato per la notte e quella mi rispose in tono secco che potevo dormire nello stanzone insieme con gli altri o là fuori sul sofà dell'anticamera, a mia scelta. Mentre mi dava questa risposta, girava per la stanza mettendo ordine qua e là senza guardarmi in viso. Udendo quella risposta, rimasi di stucco e cercai di farmi più piccolo di quello che ero, mostrandomi anzi contento di cedere la camera per una notte. Feci la faccia cortese per non irritare quella donna e non farmi magari cacciare di casa. Dissi: «Una soluzione si troverà», e non aggiunsi altro. Quella girava ancora per la stanza. «Del resto vi devo ripetere che non posso permettermi il lusso di dare vitto e alloggio a credito, ve l'ho già detto una volta. Certo, però si tratterà solo di questi pochi giorni finché termino l'articolo», risposi. «Poi vi darò volentieri 5 corone in più del conto, anzi molto volentieri». Ma evidentemente non aveva più fiducia nel mio articolo, si vedeva. E io non potevo concedermi di essere orgoglioso e di andarmene per quella piccola offesa. Sapevo che cosa mi aspettava se me ne andavo. Elia Shilton ha letto Fame di Knut Hamsun, traduzione di Erminio Pocar. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio.